posto fermo in stazione ed io che voglio vivere ed io che posso credere. Ma certo, certo che ho bisogno di te. No, no, no, no, no, no. Ma certo, certo cosa credi, perché sarà tu, tu, tu, tu. Ma tu, ma tu non devi ridere. Oh, oh, oh, e tu sai solo ridere. Pensando al tempo insieme, non so cos'è che mi trattiene. Tu che provi a stringere, e tu ma chi vuoi illudere. Ma tanto sono io che soffro, ma non importa, fa lo stesso. Ed io che vorrei averti qui, ed io non posso perderti. Certo che vorrei avere te, no, no, no, no, no, no, ma certo, però non capisco perché sarà tu, tu, tu, tu, e tu non vuoi discuterne, oh, ma tu chiusa crisalide. Col mio passo stringendo i pugni contro il petto, e tu, tu che ora te ne vai, e tu, ma dimmi cosa vuoi. Ma certo, certo che ho vissuto per te, no, no, no, no, no, no, ma certo, però non capisco perché sarà tu, tu, tu, tu, sei tu.